vita, che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa quando è che sbaglia, quando ci dona, quando ci toglie. Chi lo sa quando è che sbaglia, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa quando è che è meglio saper capire cosa non sbaglio. Nessuno sa qual è la storia per poter dire andiamo fin tanto. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Solo un abbaglio, non c'è canzone senza lo sbaglio.